Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Si chiude domani la nuova settimana della moda milanese, l'appuntamento che trasforma Milano nella capitale mondiale del settore, lo spunto perfetto per raccontarvi le iniziative del quadrilatero della moda che guardano a una clientela internazionale e digitale. Sempre Milano è il punto di partenza di un progetto destinato a fare a scuola, è un progetto che unisce profit e non profit e premia il valore di cittadinanza del volontariato. Inizia a prendere piede la consegna collaborativa, arriva una nuova app che punta alle spedizioni tra privati e salta a pie pari, diciamo così, Corrieri e Pony Express. Spazio infine alla Female Print, l'impronta femminile che i consumi valorizzano nell'offerta di prodotti e servizi e nella loro comunicazione. Monte Napoleone, il salotto di Milano, ritrovo del signore dell'elite della città, la mia Monte Napoleone, riverenze e baci a mano, il vermouth l'americano, appuntamento nel bar. Dalla VIP lounge per riposarsi e dedicarsi allo shopping super personalizzato all'app con le informazioni geolocalizzate boutique per boutique. Via Monte Napoleone coccola la sua clientela sempre più internazionale. Dell'offerta digitale del quadrilatero della moda abbiamo parlato con Umberto Andreozzi di Accenture. Accenture Digital collabora oramai con l'associazione da circa 2 anni per creare quello che è un evoluzione digitale nel quadrilatero. Il nostro progetto desidera creare un'offerta più tonda, non solo legata all'acquisto dei beni di lusso, ma anche ai servizi legati al travel e alla cultura, promuovendo un'eccellenza italiana in versione digitale. Facciamo un esempio concreto: supponiamo che un cliente parte proprio da un paese lontano, come sia la Cina, si prenota il suo viaggio all'interno del portale grazie alla conciergerie e raggiunge il primo aeroporto di Malpensa a Milano. Grazie ai servizi di geolocalizzazione noi sappiamo che è arrivato a Malpensa e iniziamo già dal suo primo giorno, il suo primo minuto piede a Milano, dare l'informazione di welcome e che lo aspettiamo in via Monte Napoleone. Non appena il cliente sarà all'interno di via Monte Napoleone o si sposterà in tutti quei servizi che lui ha acquistato sul portale, noi tramite il beacon, perciò non più la geolocalizzazione ma il beacon intercetterà sul quadrilatero il suo telefonino e lo indirizzeremo su, per esempio, conoscendo la sua esperienza d'acquisto, quali sono le boutique all'interno del quadrilatero e come le vuole raggiungere, se ha bisogno di servizi particolari per poter muoversi all'interno del quadrilatero, oppure dando a lui tutte quelle che sono le informazioni relative ai palazzi, perciò culturali della via, informazioni chiamiamoli relative anche a quelle che è il tax free, perciò dove sono i tax free presenti sulla via, e pertanto noi continuiamo in base a come lui si muove, quello che lui interagisce, a dare delle informazioni che sono personalizzate per lui. Si stanno muovendo altri in questo modo? È una singolarità, un'eccellenza italiana? Noi come società di consulenza ovviamente abbiamo fatto tutto quella che era la parte di scouting e capire realmente di come questa evoluzione era stata affrontata anche sulle altre vie del lusso. E sulle altre vie del lusso i progetti che sono stati lanciati non sono stati alla nostra altezza per diversi motivi. Il primo, in quanto l'offerta non si allontanava troppo a quello che era realmente l'interesse di quel quadrilatero stesso, e l'altra grande particolarità è che non avevano la forza sia tecnologica e di Accenture, sia la forza dell'associazione di poter mettere tanti brand insieme in un unico progetto per creare quello che abbiamo nominato One Luxury Destination e pertanto una destinazione unica a Milano. Cambiamo argomento, parliamo ora di un'iniziativa destinata a fare scuola. Si tratta della Volontario Card, la prima carta che premia chi fa del bene. Sconti ai volontari per teatri, librerie e ristoranti e contributi per le associazioni di cui fanno parte. A promuoverla CSV, Centro Servizi per il Volontariato Città di Milano, ce ne parla Alice Rossi. Volontario Card è un progetto che CSV Milano con UbiBanca e il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli ha messo in piedi per mettere a disposizione delle associazioni uno strumento che è appunto Volontario Card, che racchiude quattro funzioni tutte in uno. Può essere una tessera associativa personalizzabile, quindi ogni associazione può metterci il suo logo e la foto del volontario che è il possessore della tessera, dà accesso ad una rete sconti, quindi i volontari che hanno questa carta possono fare acquisti a prezzi scontati in una vasta rete di negozi e aziende che in tutta Italia hanno sposato questo progetto e riconoscono quindi il valore del volontariato di Volontario Card. È anche una carta conto prepagata che ci mette a disposizione UbiBanca ha una tariffa agevolata rispetto all'analogo prodotto di Ubi. E in ultimo, una funzione importante, alla carta è connesso un meccanismo di donazione. Quindi per ogni carta attiva e in base all'uso che il volontario fa di questa carta, Ubi rinuncia a una parte dei propri profitti e la gira all'associazione come donazione, diciamo liberalità. È uno strumento riservato ai volontari. A disposizione di tutte le organizzazioni che impiegano per le loro attività volontari. Quindi non solo per le organizzazioni di volontariato, ma anche per le associazioni culturali, per le sportive dilettantistiche, per le associazioni di promozione sociale, non so, per esempio per la parrocchia, ecco, che magari non è un'associazione tout court, ma usa volontari, insomma, per lo svolgimento delle sue attività. E il mondo del profit sta aderendo al progetto, infatti sono molte le realtà che poi consentono ai volontari di avere degli sconti. Sì, siamo contenti perché devo dire che abbiamo risposte positive, sono diverse le realtà in tutta Italia, dai grandi marchi, non so, cito Feltrinelli, Mondadori, alle realtà che si occupano di mobilità sostenibile come Share & Go, realtà anche più piccole, locali, parlo ad esempio dei cinema, dei teatri, appunto sia di Milano che di Napoli, della città metropolitana. Sono molte le realtà che stanno, come dire, accogliendo questo progetto e ci mettono a disposizione dei vantaggi, delle agevolazioni, ecco. È anche il segno di un cambiamento culturale in qualche modo, perché siamo abituati a riconoscere dei vantaggi a categorie come i giovani, gli anziani, in ambito cittadino intendo. Per la prima volta la categoria del volontario assume in qualche modo, insomma, una dignità sociale, metropolitana. Sì, come dire, l'idea che sta anche alla base di Volontario Card è anche quella di dare un riconoscimento a chi dedica parte del proprio tempo, delle proprie energie a azioni di coesione sociale, al benessere della comunità e del territorio in cui vive, no? Nell'ottica di un consumo sempre più responsabile, partecipato, in cui il valore anche di realtà profit, realtà legate al mondo del consumo, appunto, ha una ricaduta sociale in qualche modo, insomma sono istanze che si fanno sempre più presenti, quella distanza che c'è sempre stata tra mondo profit e mondo non profit si sta in qualche modo accorciando a beneficio di tutti, ecco, è una trasformazione che voi dal vostro osservatorio state percependo? Sì, guarda, le tendenze in questo senso sono molte. Noi cerchiamo, come dire, di attivare progettualità e idee che possano dare strumenti a chi vuole, come dire, sperimentare in questa direzione. In questo senso anche Volontario Card può essere uno strumento per le associazioni, per i volontari, ma anche per chi vuole un pochino sperimentare nuove vie per avvicinarsi, per mettere in relazione questi mondi. Aggiungo un'altra cosa, tra la rete di realtà che stanno in qualche modo sposando il progetto di Volontario Card, stiamo accogliendo anche tante realtà che si occupano di chilometro zero, di consumo sostenibile, di commercio equo, quindi siamo anche molto contenti e fieri che sia l'occasione anche per ribadire insomma anche un certo tipo di consumo, e ci fa piacere anche che queste realtà rispondano in modo molto positivo, ecco. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, torniamo a parlare di consegna collaborativa, le consegne dei pacchi tra privati e di Female Print, la nuova impronta femminile nei consumi. Restate con noi. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30, solo su Radio 24. Questo non credo. Ascoltaci anche in digital radio. Essere e avere. Che cosa vuoi? HDS, signore, e come va questo pomeriggio? Benone, allora, ecco, un po'... Mi sembra rotto. Molto probabile, signore, scommetto che era un bell'oggetto, però. Allora, questo è il modulo dell'assicurazione, se vuole firmare qui, qui, qui, qui e qui, le iniziali e qui il nome per esteso, e faremo avere gli altri moduli appena possibile. It's always more fun to share with everyone. La sharing economy cambia anche il mondo delle spedizioni, si fa strada alla consegna collaborativa. Oggi vi parliamo di Tok Tok Box, un'app che mette in contatto chi deve spedire un oggetto con chi si sposta nella stessa direzione ed è disposto a portarlo con sé. Ruggero Fede è uno dei fondatori della startup. Vogliamo subito farvi pensare a quante volte abbiamo viaggiato in auto con il bagagliaio o i sedili posteriori liberi, oppure in treno con un trolley leggero. Ecco, Tok Tok Box vuole sfruttare queste opportunità, quindi facendo in modo che chi deve effettuare una spedizione possa chiedere aiuto a chi va già, per altri motivi, nella stessa direzione dei suoi oggetti. Se un utente deve spedire un oggetto, può accedere all'app, consultare la bacheca dei viaggi e quindi vedere se qualcuno va nella stessa direzione dei suoi oggetti, altrimenti può inserire un annuncio di spedizione pubblicando la foto degli oggetti da spedire. Allo stesso modo, chi deve mettersi in viaggio o inserisce il proprio percorso, oppure può scoprire se in bacheca ci sono degli oggetti in cerca di passaggio. A chi si rivolge? Solo ai privati o anche ai piccoli corrieri? No, vogliamo che Tok Tok Box sia rivolto solamente ai privati, quindi sia un servizio puramente tra cittadini e tra persone comuni. Il prezzo da chi viene fissato? Allora, Tok Tok Box suggerisce un rimborso durante l'inserimento di un annuncio di spedizione. Il rimborso poi può essere immediatamente variato dall'utente, proprio per magari adeguarlo ai suoi bisogni. Tok Tok Box preleverà una piccola percentuale da questo rimborso, quindi una percentuale che è del 10%. Voi a che tipologia di situazioni avete pensato? Quali possono essere i vantaggi rispetto ai corrieri tradizionali? Allora, i vantaggi sono molteplici, anche se noi non vediamo una competizione diretta con i grandi player delle spedizioni, perché noi vogliamo favorire nuove opportunità di spedizione. Faccio degli esempi concreti. Pensiamo a tutti quegli oggetti difficili da impacchettare e scatolare. Ad esempio, tra i miei annunci ci sono sgabelli da bar, scalette da barca, seggioloni, oppure pensate a oggetti con elevati costi di spedizione come uno scooter, materassi o altri grandi elementi d'arredo. In più, prodotti alimentari locali come bottiglie d'olio, una bella confezione di babà oppure i taralli pugliesi. Quindi è difficile che ad oggi, se io voglio ricevere appunto questi prodotti della mia regione, io mi affidi ad un corriere, almeno pensiamo che ci siano un po' di ostacoli. In più, tutti quei piccoli oggetti che ci servono urgentemente, come chiavi, caricabatterie o cellulari, che magari sono stati dimenticati chissà dove, sono queste le nuove opportunità di spedizioni con Tok Tok Box, che ad oggi quindi noi non sfrutteremmo invece con un corriere tradizionale. Focus sui trend. È tutto dedicato alla donna e all'identità femminile, il focus sui trend di questa settimana. Il mondo dei consumi guarda a una donna nuova al di fuori di qualsiasi stereotipo a beneficio della diversità e dell'inclusione. È una tendenza che cambia i prodotti già esistenti oppure ne crea di nuovi e rivoluziona marketing e comunicazione al femminile. Ne parliamo con Isabella Guaitoli di Future Concept Lab. Ciao Isabella, ben trovata. Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti. Allora, voi parlate di female print, di una nuova impronta femminile nei consumi. Nei consumi e nella società in generale, perché già da tempo Future Concept Lab segue un po' questo cambiamento, che è un vero e proprio cambiamento paradigmatico, diciamo noi, cioè che avrà risvolti anche a distanza di anni. Il female print è l'impronta femminile, no? Quella che la donna lascia oggi sempre di più nella società, nella comunità, ma anche nella cultura, nella politica. Questo ha portato a un mondo femminile adesso molto effervescente e ricco, sia nel confronto col mondo maschile che c'è da tanto tempo e c'è da sempre, ma oggi soprattutto nel voler guardare alla complessità che c'è al proprio interno, a queste diversità che ne fanno poi la ricchezza. Ecco, allora adesso si può parlare di identity layers, cioè strati di identità, livelli diversi che si sovrappongono e creano un'identità appunto mediatica, collettiva, che è più simile a quella individuale come realmente è per la donna di oggi. Passiamo allora ai casi che hai selezionato. L'esempio principe attuale di questo cambiamento è sicuramente la collezione Barbie Fashionista che la Mattel sta proponendo per il 2016, perché è una collezione in cui Barbie viene venduta, oltre che nella sua versione originale, anche in altre versioni di corporatura. Le versioni in cui sarà disponibile Barbie sono 33, ci sarà una Barbie Petit, piccolina, una Barbie curvy e una Barbie tall, alta, e questo sottolinea finalmente, no, che non c'è più una sola misura standard, un solo ideale corporeo per rappresentare la bellezza femminile. Il lancio, che c'è stato tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, si è guadagnato anche la copertina del Time, dove campeggia Barbie che dice: adesso possiamo smetterla di parlare del mio corpo. Per parlare di identity layers, quindi di stratificazione, di diversità, cito volentieri anche un altro caso molto attuale, che è la Capsule Collection che Benetton ha lanciato per il Carnevale e che si chiama Face of the City Collection. È una collezione che fa parte di una iniziativa che si chiama A Collection of Us, con la quale Benetton sottolinea il suo impegno sociale proprio al fianco delle donne e contemporaneamente festeggia il 50°. Una campagna in cui le modelle che indossano i capi non sono proprio modelle vere, reali, ma incarnano la diversità razziale della città, appunto la city a cui appartengono. Cosa hanno fatto? Hanno scelto 6 città: Milano, Londra, Tokyo, New York, Parigi e Berlino. Hanno analizzato la composizione demografica delle diverse etnie al loro interno, hanno fotografato delle donne di queste diverse etnie in ogni città e poi hanno applicato ai loro volti un algoritmo che li mixa secondo le reali e precise proporzioni con cui queste etnie sono presenti nella città a livello di popolazione. Hanno lavorato con il morphing sulla carnagione, la forma degli occhi, del naso, del volto, eccetera, e hanno ottenuto un volto unico in ogni città. Tutte queste modelle sono diverse, ma molto simili tra loro, quindi sono contemporaneamente ideali e realistiche, perché inglobano all'interno la bellezza della diversità. Anche i prodotti che avevano sempre puntato in comunicazione perlomeno ad un target maschile si sono adeguati a questa impronta femminile. Sì, Nike per esempio sta andando in questa direzione, insomma è un'azienda che negli anni 90 aveva un'identità molto maschile, ma poi durante il decennio successivo ha virato verso anche il pubblico femminile e ha un'idea di sport che è più vicina alle donne, no? Quindi l'attività fisica non come prestazione da primato, ma come durata, come impegno progressivo, no? Dal Just Do It storico all'attuale Better For It. È molto interessante la modalità con cui sta facendo pubblicità in questo momento, perché ha lanciato una serie su YouTube che si chiama Margot e Lily. Sono due sorelle adottate, che sono molto diverse tra loro. Una è bianca, l'altra è nera, una è geek, l'altra è molto sportiva e salutista. E questa diversità è un espediente per parlare appunto a tutte le trentenni e le ventenni di oggi e far passare in modo spiritoso la filosofia della marca, no? Cioè tutte le donne possono impegnarsi per ottenere un obiettivo. Come sempre, la galleria di immagini con tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook, nuovi modelli femminili, abbiamo detto Isabella, nuovi immaginari di riferimento, nuovi parametri di bellezza anche. Perché questa stratificazione, no, di idealtipi femminili, questa varietà porta anche a un arricchimento dell'immaginario mediatico sulla donna. E questo spinge le donne stesse a riconoscersi di più, ad accettare di più il proprio corpo, e questo influisce, ad esempio, nel settore della bellezza, della cosmesi, a rafforzare un macro trend che è già in atto da qualche anno, che è quello di una ricerca di maggiore naturalità e naturalezza, no? E quindi questo, per esempio, fa segnare il passo della chirurgia estetica classica, quella più invasiva, a favore invece di prodotti o di interventi sempre di chirurgia, ma decisamente meno invasivi, meno lifting e più creme di bellezza, meno laser e più trattamenti innovativi. E il modello di bellezza cambia anche per quello che riguarda, vediamo l'immaginario femminile legato più alla seduzione. Mi sento qui di citare Sports Illustrated Magazine, no? Il settimanale americano del Time. Cosa ha fatto con l'ultimo numero dedicato ai costumi da bagno, che è l'inserto più popolare, quello che negli anni ha portato al successo, per dire, le modelle che di volta in volta appaiono sulle copertine? Ecco, questo numero ha cambiato un po' le regole, perché nel 2016 hanno innanzitutto moltiplicato le cover, no? Anche qui la moltiplicazione dei modelli da 1 a 3, e poi hanno deciso di allargare proprio il panorama delle modelle, delle bellezze in copertina, insieme alla classica bellezza bionda dalle misure perfette californiana, Hailey Closon. C'è però anche una cover dedicata a una figura muscolosa e un'altra a una figura curvy. La prima, la muscolosa, è Ronda Rousey, che è una star della Ultimate Fighting Championship, cioè l'organizzazione di arti marziali miste statunitense. L'altra invece, la figura femminile più curvy, è la modella oversize Ashley Graham, famosa perché sta proprio portando avanti una battaglia anche personale, ma in nome di tutte le donne di tutte le taglie, e che è stata inserita da Forbes nella lista degli under 30 più influenti del mondo. Non più solo Barbie, dunque, anche perché lo abbiamo detto, di Barbie ormai non ce n'è più solo una. Grazie ad Isabella Guaitoli per essere stata con noi. Alla prossima. Grazie, arrivederci a tutti. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, per la nostra riflessione finale, il sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa e radioascoltatori. Il tema di oggi è il design thinking, perché questo ci permette di chiarire ancora una volta cosa intendiamo per consumautore. Il design thinking è il disegnarsi la vita, quindi il progettare la propria vita al di là delle competenze specifiche. Quindi siamo tutti un po' designer da questo punto di vista. Quindi la metodologia del processo creativo applicata a tutti i settori. Applicata a tutti i settori, e qui devo dire che emergono interessanti sfide anche nelle università, corsi nuovi. Faccio alcuni esempi. Ca' Foscari lancia quest'anno un corso di Digital Design Strategy Innovation. Ed è, devo dire, interessante, perché mettere insieme la dimensione del digitale, che sappiamo ormai è pervasiva, con quella del design, che significa disegnare anche le strategie, non è più una sorta di separazione tra un mondo artigianale, che è quello classico, manifatturiero, lontano dal digitale, e il mondo invece delle nuove tecnologie. In mezzo a tutto c'è l'innovazione, naturalmente. Altro esempio, a Lupa, un corso di comunicazione d'azienda nella Network Society. Quindi, ecco, questa dimensione digitale è sempre presente e facilita proprio il design thinking. Da sempre il design recepisce meglio di altre discipline, di altri processi, appunto, le istanze che arrivano dalla società, e ne fanno un settore più democratico. Penso ad esempio al confronto con la moda. Ecco perché. Perché abbiamo assistito, devo dire, soprattutto in Italia, perché questo è un fenomeno molto italiano, a questa permeabilità di un mondo, diciamo, quello che un tempo era definita la cultura del progetto, quindi architetti che hanno capito prima di altri quanto fosse importante la vita quotidiana. Quindi architetti straordinari che hanno cominciato a progettare oggetti per la casa, no? Pensiamo quanto Alessi sia stato un laboratorio da questo punto di vista. E quindi le altre discipline sono rimaste invece più ingessate oppure più legate al mercato, come nel caso della moda, ma oggi devo dire che tutti hanno capito, quindi design thinking non è trasversale, insomma, riguarda un po' tutti i settori e anche tutte le modalità di comunicazione, riguarda molto anche le brand. Grazie a Francesco Morace e grazie a Pietro Lacorte. In regia Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.